Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. L'ABC del combattimento tra Teresa e il vaiolo nero. Quarto episodio dello spettacolo a puntate Teresa Santa, Puttana e Sposa di Marco Bilanzone, regia Lorenzo Montanini, con Nadia Raman Caretto, Flavia De Lipsis, Jessica Granato, Eleonora Turco, Giuseppe Mortelliti, Alessandro Di Somma. La storia di Teresa è la storia di una straniera. Orfana di padre e di madre, adottata da zii lontani, Teresa è una donna nata libera e venduta a 13 anni, prostituta e schiava bambina, ballerina e cantante ineguagliabile, moglie devota del dottor Emiliano Ghedin e amante indomita in eterna attesa del ritorno di Gennaro Corolla, marinaio bello e fatale, pacifica e tutta gentilezze, guerriera e protettrice dei più deboli, femminista e prostituta, santa e figlia del dio della guerra. Queste avventure di Teresa accaddero nella regione di Sant'Esolo, ai margini dei Monti Filitei, nel magico sud del nostro paese. È un territorio abitato da gente che proviene da tutte le parti di questa variopinta nazione, gente che poco chiacchiera con gli stranieri e che è avvezza al duro lavoro sotto il sole. Vi preghiamo di scusarci se non racconteremo tutto, dalla A alla Z. Non possiamo farlo perché non lo sappiamo. Ma esisterà poi qualcuno al mondo che sappia tutta la verità su Teresa, sulle sue fatiche e sui suoi ozi? Non crediamo se ne conosca nemmeno la metà. Questa è solo la storia di come Teresa, per fuggire alle pressanti richieste di un tozzo e potente riccone, diventò la mantenuta del dottor Ottorino Spinazzola e si ritrovò infermiera e prostituta nel mezzo di un'epidemia di vaiolo nero nel paesino di Cozzuto Volturno. Questa è la storia di come il vaiolo uccise con tanta velocità e efficienza che non ci fu modo di trasportare tutti i defunti al cimitero e di come il dottor Ottorino Spinazzola prese al volo il treno delle 16.03 diretto alla capitale e non fece ritorno mai più. Sono molte le storie che si diffusero sulla bocca della gente. Vogliamo, però, ripetere una cosa e lo creda chi vuole. A porre fine al vaiolo nero che imperversava per le strade sono state le prostitute di Via della Fratta Torta, capeggiate da Teresa. Allora il vaiolo è fuggito a precipizio, ritirandosi disordinatamente verso il fiume, che è una delle sue residenze preferite. Nascosto in una grotta, aspetta una nuova occasione. Ve voglio di mannà, se v'è già capitato di vedere un poro Cristo zeppo di vesci che tutto una piaga, col corpo in carne viva che sta a bullicà, incaforcato dentro d'un sacco e portato al lazzaretto, così. E ditemi un po', se vi siete mai incollati per più di un chilometro un vaglioloso che sta a reggere il fiato con i denti per portarlo fino al lazzaretto, malgrado il tanfo che impesta l'aria e il miele del pus che gli scorre giù per aiuta. Au! Se crede che ci vuole crede, gli erughi a chi gli deve rugà, ma quanto è vero Dio, sono state le mignotte e nessun altro alle guida del vaiolo quando arrivò da ste parti. Cioè, quanto è vero Dio? Se va per Dio, è un'espressione, perché sta terra qua è abbandonata e sterile in capo al mondo. Se non ci stavano quelle disgraziate le vie della Fratta Torta, qua non ci sarebbe rimasta manco l'ombra di un cristiano per contare com'è andata. Dio c'ha un sacco di messe. Che io più non resisto. e de cose da fa e c'ha una cifra dei bei posti dove andà. Non è che può perdere tempo con i vagliolosi del consulto corturno. A occuparsi di tutti fu proprio la già citata Teresa Battista. Co Teresa anche che te sfianca, Teresa sette sapori, Teresa passo molle, oh, tutti i nomi meritati, lo garantisco io. Teresa Arvagliolo gli ha dato un mozzico alla gamba, ha masticato il boccone con quei suoi denti limati, capolavoro del dentista di Sant'Esolo che dopo di una rissa gli ne avevano rotto uno, vabbè, ma questa è un'altra storia. Insomma, ha masticato il boccone e l'ha sputato de fuori. Una roba mai vista, indimenticabile, amici miei. Io, che sono Tommaso Sirva, detto Tommasino delle Negre, per un mio certo gusto per i cioccolatini, vabbè, ma pure questa è un'altra storia. Custode dell'ufficio sanitario del consulto corturno, sopravvissuto e testimonio ancora oggi. Se chiudo l'occhio, mi vedo Teresa, con quella bellezza che levate, che solleva il sacco, e dentro di quel sacco c'è stava Zaccaria, tutta una piaga che piagneva e pregava. Alleluia, alleluia, gloria. Se chiudo l'occhio, oh, ancora me la vedo. Gloria, alleluia, gloria, gloria. Col sacco sulle spalle come un ciuccio sul bigonzo, e se ne va verso il lazaretto. Teresa, finita la paura, è un altro nome che c'aveva. Forse è il primo che gli hanno dato, tanto tempo fa. Yeah, guarda che roba, 200 lire. Conservate vestiti e cappotti, signora. Forza. 100 lire, tre gliene. Belle chiappe. Mani de fata. La vecchia Gregoria. A chi? Vaccarella. Te lo fa a punta. Una ciumachella di 14 anni d'età e due di mestiere. Fai treva. Appena arrivata in città. Una scritta dei bagagli, amico. E da sole hanno affrontato. E vinto. Il vagliolo nero. Nella città dove quell'assassino maledetto si era scatenato. Al comando della battaglia, a fianco del popolo, Teresa Battista. Una guerra terribile, eh? La gente non poteva neanche squagliarsela, perché sto privilegio era riservato a quelli con i baiocchi del centro della città. I proprietari, i commercianti, professionisti, a incominciare dagli dottori, che furono i primi a alzare i tacchi. Uno diretto all'Arberi Pizzuti e l'altro nella capitale. Ma Teresa non si spaventò. Ma per curare i vaiolosi e sfidare fetore e lagne, il coraggio non abbasta. Ci vanno i coglioni e anche stomaco e core. E solo le donne perdute ci hanno sta competenza, perché se la guadambiano col mestiere loro. Noi, che malattie del mondo ci siamo fatta abitudine al posto. E fregannocene dei virtuosi, dei sdegnosi, dei meglio messi. Abbiamo imparato che la vita non vale un figo secco e il molto che sa vale. Siamo la pellaccia e la bocca amara. E però non siamo aride o insensibili o indifferenti a quelli che tribolano e che spanticano. C'avemo il vigore del gran coraggio. Ma che non va basta forse il nome? Donne de vita. Te lo fa a punta? A chi? Cieco, vuoti buchi degli occhi, le mani sgocciolanti pus, tutto piaghe e fetore. Il vaiolo nero sbarcò in città da un treno merci delle ferrovie sud, che veniva dalle sponde del fiume Volturno, dove si riuniscono il tifo, paratifo, febbre tifoidi, la malaria, la lebbra millenaria ma sempre più giovane, la malattia del sonno, la febbre gialla, la dissenteria specializzata nel far fuori i bambini, la vecchia peste bubbonica ancora sulla breccia, la tisi e diverse altre febbre. nonché l'analfabetismo, padre e patriarca. Qui, sulle sponde del fiume, le epidemie ci hanno a disposizione dei potenti alleati, cioè i padroni della terra, i colonnelli, i commissari da Madama, i comandanti dei distaccamenti della forza pubblica, i capobastoni, i mannatari, quei pappolari dei politicanti e finalmente il canchero del governo sovrano. Necessari e benemeriti flagelli. Senza di loro come tenere in piedi la società costituita e reprimere il popolo che di tutti i flagelli è il peggiore. Pensate un po', quella gente, se avesse la salute, se sapesse leggere, che pericolo tremendo sarebbe. Diamo il benvenuto a Cozzuto Volturno al benemerito illustrissimo direttore del Dipartimento di Salute Pubblica dello Stato con la sua allegra carovana. E dalli de borgo in borgo a pappasse i banchetti a nagattacce. Perché podesto non è il medioevo, che il loro signore profeta di sventura non fanno che augurare al nostro amabilissimo paese. Abbiamo dimostrato con vera lucidità e determinazione che si può senza meno sconfiggere il male in quantunque angolo lo si annidi. Le cornacchie del malaugurio ordunque se la tacciono ora puntando che non c'è più nulla da dichiarare innanzi all'efficienza acclamata e conclamata dell'ottimo governo che di fronte a una battaglia si è fatta e si vinta non si è accantonato da parte, no? Giammai abbiamo stancato lo viruleso morbo e lo abbiamo rispedito nelle fognature. E noi altri si è dovuto pur anche battagliare non solamente contro le malanni tremebondi dell'ugolera, della malaria e non ultimissimo del fedidissimo paiolo, ma se giusto appunto ho dovuto anche stare a perdere tempo prezioso contro codeste iene furiere di tragende che vorrebbero sempre vedere il nostro invitto paese in tetri malanni afflitto. Ma oggi non è giorno delle recriminazioni. Oggi giorno è il giorno di festività e spanzierabella. Or dunque rallegriamoci. Or dunque gioiamoci. Il sole torna a rilucere. Rilucere sulle sponde dello nostro cristallino fiume, Cozzuto Volturno e debelle da tutte le malattie che il demonio ha creato. Viva, viva e viva, viva! Addio, morbillo, prenditi le tue pustole e ritornatene in Africa da dove sei giunto. Qui non c'è più posto per te. Qua siamo gente pulita e candida, candida, candida! Mai una ragata ci ha afflitto, il mitore che contrassegna il popolo di Cozzuto Volturno inequivocabile. E non ci venissero adesso i professorotti a farci il predicazio che bisogna costrizionare le persone a vaccinare sì e tutte quante forzevolmente, che le epidermidi sono dietro l'angolo. Ma per chi ci hanno preso? Per degli idiomi? E stiano bene a sentire i loro signori dottorelli. Non c'è nessuna epidemia di alcun qualcosa dietro l'angolo. Vie vie patite. Oure voire colera, da svidania vaiolo. Tu qui non metterai più piede. In alto i calici. I calici. Viva Cozzuto Volturno! A Cozzuto Volturno, viva viva e viva viva! Alla salute! Non era manco trascorsa una settimana da quella patriottica commemorazione che era il vaiolo nero, fosse per coincidenza o fosse di proposito, li guidò tra i primi proprio il prefetto Papa Vaccini. Viva, viva! E poi un poliziotto, la moglie del sagrestano. Mandami ora in pace al creatore. Quella vera, non l'amante per fortuna. Un carrettiere e due bracciatti dalla tenuta del barone della Côte de Fos. E fu proprio una cosa brutta a vedesse. Della salute della gente in città si occupavano due medici. La dottoressa Evelina Malapena. E permesso, salve, ciao cara. E il dottorino Torino Spinazzola. Figa. Più l'Orazia, l'infermiera senza diploma esiliata dalla capitale impaziente di ritornarci. Ah, e poi c'era Tommaso Silva, detto Masino delle Negre. È un mio certo gusto per i cioccolatini. Un misto tra infermiere, guardiano e fattorino dell'ufficio di igiene. E il dottor Torino Spinazzola era un paino. Laureato da un anno e mezzo, che ancora non era riuscito a ottenere la fiducia degli abitanti a causa dell'età sua. Ma lui se dava mica troppa pena questa mancanza di prestigio. Ma che? Era stato nominato medico dell'Istituto di Igiene Statale della città. Appena laureato, dopo un tirocinio dei 6 mesi, ne manco un giorno di più. Giusto il tempo necessario per giustificare una promozione. Ma il dottorino, il mestiere del clinico non gli sconfifferava. Voleva tentare la politica. Fosse legge deputato federale. Andasse nel nord, dove si vive una vita di lusso. Mentre qua, siamo tutti stracciaroli, carciofari e caciottari che scarselle vote. In compenso c'aveva un orrore sacro delle malattie in generale e del vaiolo in particolare. Una malattia che se ne ammazza sfigura. Si immaginò se stesso con la sua faccia tutta butterata. Il suo faccino scuro tondo e galante da bambolotto. Non avrebbe più cuccata una che ne valesse la pena. Senza pagà. Nemmia vero, Il vaiolo si era scatenato nella città in campagna. E quando si seccano le pustole il vaiolo diventa ancora più contagioso. E nei vicoli le croste e le ferite, quando tira il vento, prendono il volo. Appena arrivato un perse tempo il vaiolo. C'aveva furia. È maledetto. Dopo pochi giorni ci furono già i primi risultati, Veglie funebri, funerali, asse a morto, pianto e lutto. Un purito per tutto il corpo che subito ci si ricopre di bolle, da diventare matti, che poi si aprono e diventano piaghe, febbre alta, delirio e il pus che si sparge coprendo gli occhi e addio olori del mondo. Tutto è pronto e finito per la bara nel giro di una settimana. S'azzittarono nel quartiere povero le canzoni. Il suono delle fisarmoniche, delle chitarre. Come era successo in centro, nelle vie di quelli col dindarolo pieno. Pure da noi, i primi morti furono interrati ancora nel cimitero. E dopo... Dopo successe quello che successe. Cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata per te, padre. pace, no, no, non c'è al mondo. Se rido e se piango è solo tu, dividi con me. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità. Da quando l'ho conosciuto, più pace non c'è, io li voglio bene, sai, un mondo di bene, e tu batti dentro di me, ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione. Teresa stava scoglionata. C'aveva le paturnie, gli era dei verchiccheroni e niente gli dava soddisfazione. Nemmanco cambia aria, vede paesi nuovi, città sconosciute. Erpaciuni, er capoccia del Madame Adore de Sant'Esolo. La gioventù dorata de Sant'Esolo si diverte a prezzi ragioni. Pure lui andava a cresta bassa. Non si vedevano all'orizzonte né movimento né svanziche per mantenere due stelle del cabaret. Perché se è vero che l'affari gli andavano male, l'affari del cuore gli andavano invece benissimo. S'era tutto invaghito da una cantante grucca, una ruscia di nome Raquel Klaus, piena di lenticchie persino sulle zinne, che gli aveva finalmente fatto superare la passione per Teresa. Era tanto caruccia, ma l'aveva fatto micco e beccaccione e soprattutto non gliel'aveva mai data. E l'altri amici? E il poeta Gesù e Grandinè? Se n'era andato a Zonzo a trovare un posto meglio in dopo in pace. In quanto a Lulu? Lulu. Lulu. L'avvocato Luigi Guarraciello. Quacciariello. Guarraciello. Quello che gli stava più a cuore. Era schiattato all'improvviso in piena aula del tribunale mentre stava a difendere un bandito di rotondella. Terese, tu tieni l'appasa a quadrighe. Avvilita. Senza amici e senza lavoro, Teresa s'era ritrovata a essere bersaglio delle proposte da un ricco signore, un mandrucone che era abituato a ottenere tutto senza bisogno di dimandare, e da un dottorino, un certo Ottorino Spinazzola. Figlia, Terry, ti scongiuro, Terry, salvami da me stesso. Lo vedi questo bel faccino? Arrivando in provincia sicuramente mi verrei a trovare al centro delle attenzioni delle sciure in cerca di un genero. Sarei costretto al fidanzamento, gioco forza attack, conseguente matrimonio. E se non mi dovessi sposare, figa, mi ritroverei a frequentare una di queste bagascette di provincia. Oh! E saranno pure assatanate, ma anche piene di malattie. Insomma, in due minuti mi ritroverei davanti al sindaco, al prete, oppure peggio mi sento appestato da una buona dose di sifilide. Ma sei fuori? Ma non gli date retta. Teresa, voi siete matta da manicomio. Come potete rifiutare la protezione di quel pezzo grosso? È l'uomo più ricco della regione e io me ne intendo di patrimoni altrui. Per di più, sta per essere eletto senatore. Ma dico, ma come si fa a rifiutare una proposta così? Ma no, Terry, ascolta me. te lo assicuro, si tratterà di un viaggio breve, brevissimo, pochi mesi, niente più che una vacanzetta tranquilla. Figa, a Cozzuto Volturno c'è una calma assoluta. E vie, vie. Una pace che manco al cimitero. Dai, per farti capire, passano solo due treni. Uno diretto alla capitale e l'altro comeback di ritorno da essa. Una rottura di coglioni infinita. Ti ha anche mandato dei tagli di stoffa per fare un vestito e un piccolo gioiello di valore. No, grazie, dona Veneranda. Quello è come il vaiolo. Il senatore infetta tutto quello che tocca e quando non uccide, sporca di pus. È vaiolo nero, di quello contagioso. Una cosa è fare il mestiere. Non implica obblighi, non esige intimità, non lascia il segno. Un'altra è molto diversa. È convivere come mantenuta da letto e da tavola, fingendo ardori da amante, rappresentando la parte dell'amica. Eviterei molto volentieri le persecuzioni di questo riccone, di essere nuovamente cacciata e battuta. No, spererete davvero di mantenervi con i proventi del mestiere di cantante e ballerina? Non siate sciocca. Lo sanno tutti che questo mestiere non è altro che una copertura per una prostituzione più cara, meno sfacciata ed evidente. Il titolo di artista e gli applausi non hanno altra utilità che quella di farsi pagare più cara la marchetta. Teresa era stata obbligata a esercitare in proprio il mestiere in giro per mondo, con la stanchezza che gli macinava il corpo e la malinconia che la consumava dentro. Ma io non ti parlo neanche d'amore, Tere. Non ti prometto mari, monti, affetto duraturo, tenerezza prolungata e profonda, tutte queste boiate, vai, Mona. Io ti invito semplicemente a una partita di piacere. Una semplice gittarella nell'Interland. Possibilmente sgnacchete divertente. Ho esplicitato. E così si era fatta convinta di accettare la proposta del dottorino e accompagnarlo giù a Cozzuto Volturno. E per sottrarsi alle proposte del ricco senatore. Ma in cuor suo riservava una speciale fedeltà a Gennaro Corolla, il capitano che aveva incontrato un giorno al cabaret Madame Adore. Quello che se l'era portata via e al cui calore era rinato il cuore suo. Amore senza speranza, pugnale piantato in del petto, baliano così fatale, così difficile. Capo, oh, capo, che mi dai due dita di grappa? Quella buona, eh? Scusa la domanda, amico, ma non hai visto le bolle che c'hai? Ma non è che c'hai il vaiolo? Che c'ho io? Eh? Io c'ho niente. È uno sfogo, è uno sfogo. È solo uno sfogo! Ma dove andate? Dove andate? Aspettate un momento. Aspettate, è uno sfogo! È una cosa, non è niente! Ah, bello! Vai dal dottore, va! Che non voglio mica che me la mischi! Stai pieno di petecchie, stai! Guarda, che se non ci vai subito, tocca che te ci portiamo noi domani! Ma no, dal medico! Dal cassamottato! C'è nessuno? Aprite! Che cosa desidera? Lei lavora qui? Sì, signore, è conciato. Dov'è il dottore? E lei che cosa vuole dal dottore? Voglio una ricetta. A quest'ora? Ma siete matto? Non sapete leggere, guardate l'orario, l'ambulatorio è aperto dalle 10. E voi che credete che le malattie ci abbiano un orario? Guarda un po', guarda qua. Io credevo che fosse uno sfogo. Però a quanto pare è vaiolo, è di quello nero. E va bene, ma non si avvicina. La casa del dottore è proprio più vicino di fronte, no? Stia fermo. Torno subito. Sono io. Chi è a quest'ora? Orazio. Entrate. dica al dottore che qui in ambulatorio c'è un uomo colpito dal vaiolo. Il vaiolo nero! Chi è che rompe i coglioni a quest'ora? Permessa! Ciao, cara. Ho visto la luce accesa e sono entrata per comunicarle subito, dottore. Ruggero Maria Pacini, il nostro prefetto, è in fin di vita. Si è preso il vaiolo. Un caso gravissimo, pochissime speranze. Ma il peggio è che non è l'unico caso. Anche lì c'è, sta la moglie del sacrestano. Anche lei è tra la vita e la morte. Si tratta di un focolaio di vaiolo. Oddio, non voglio che non sia un'epidemia. Ma vedo che il mio caro collega è già stato informato dal momento che ha aperto l'ufficio a quest'ora. Per cominciare, naturalmente, col vaccinare tutta la popolazione, immagino. Tutta la popolazione. Quante migliaia di persone saranno? 3, 4, 5 mila. Considerando oltre la cittadina anche le campagne? Qual è la riserva di vaccino che abbiamo in ambulatorio? E soprattutto, io, dove la trovo? È un'epidemia, caro collega. Si sa chi vede l'inizio, ma non ci resta fino alla fine. Io ne ho già viste 3 fino alla fine e adesso da questa non me la scampo. Col vaiolo nessuno ce la fa. E io che cosa faccio, dottoressa? Non voglio morire. Perché dovrei morire io? Il dottorino qua non ha niente da fare. Di giorno non si fa vedere, e poi ci fa svegliare di notte. È un'epidemia, caro collega, è un'epidemia di vaiolo. Senta, Evelyn, lei l'ha detto lei stessa, ne ha viste 3 di epidemie, quindi vada lei a lavorare, giù per strada, vada a vaccinare. Io ho appena cominciato a vivere, lei è vecchia e ormai non serve più a niente. E guardate, poi c'è l'Orazia che ha pure voglia di vomitare. Che sta qui la dottoressa Malapena? Chi mi cerca? So io, so Gregoria, la nipote di donna Aurina, dottore. Mi nonna ha stirato le cianche, è morta. E io sono corsa dappertutto, come una matta per cercarla. E poi sono venuta fino a qui. E per certificato di morte. Il cuore, no? Ma magari, dottore, ma magari. Io è venuta fuori una quantità de bolle e de bozzi da tutte le parti. E poi un febbrone. Non abbiamo fatto manco un tempo a chiamarla, che già aveva tirato le cuoia. Delle bolle? Sì, sulla faccia e sulle mani, dottore. E per tutto il corpo, poveretta, si grattava, stava male. È morta quando gli è salita la febbre. Il termometro che ci siamo fatti imprestare dal vicino dava più di 40 gradi, dottore! È meglio che lei venga con me, caro collega. Se si tratta di un altro caso di vaiolo, avremo constatato il focolaio epidemico, il primo decesso. Tu, ragazzo, torna a casa, disinfettati col permanganato, avvolgiti tutto in foglie di vite, evita la luce, coricati e aspetta! Aspettare che cosa, dottore? Un miracolo celeste o la morte? Che cos'altro, dottore? Maledizione! Dove sono? Dove le hanno messe? Dove stanno? Dove sono? Dove le hanno serbate così ben nascoste queste maledettissime ampolle di vaccino? Se io, che sono il direttore dell'istituto, il responsabile dell'igiene pubblica della popolazione di questo comune di merda, non sono ancora riuscito a metterci le mani addosso. Ma perché non le ho cercate prima? Dove stanno? Dove sono? Bisogna trovare i vaccini, bisogna trovarli finché c'è tempo, bisogna iniettarli finché c'è la gente. Dove stanno? Dove sono? Fammi ridere, dottore. T'hanno fatto coglione, T'hanno fregato per davvero. Quanto al vaccino, ce ne deve essere ancora un pochino avanzato dall'ultima rimessa nell'armadio degli stupefacenti. La chiave ce l'ha l'Orazia. L'Orazia? Ma porca troia! Mai vista donna peggio di quella? Pretenziosa, piena di sé, con la faccia di chi ha mangiato merda e non gli è piaciuta. Ma il vaccino qui non lo mandano da mesi, Mentre noi siamo qui a morire di fatica. Lei, dottorino, sta lì con quella mezza filippina. E l'Orazio a farsi di talini, anche se non serva molto, quell'isteria rompe coglioni a tutti col suo fidanzato famoso. E io in giro a cercare qualche disgraziato di passaggio come Dio comanda. Dottor mio, vada bene, la chiave ce l'ha quella strega. Orazia! Orazia! Orazia, faccia presto, donna Orazia, si muova, si sbrighi invece di perdere tempo. Faccia qualcosa invece di piagnucolare, minacciare svenimenti, fare smorfie e vomitare. Vada a prendere i vaccini piuttosto e si preparino lei là e il Tommasino ad andar fuori per la strada a vaccinare. È per questo che siete pagati dallo Stato. Coi soldi di chi? Coi soldi dei contribuenti. Lavoro, guadagno, pago, pretendo. La riserva che abbiamo, dico a lei, signor dottorino da quattro soldi, basta appena per vaccinare i bambini delle scuole elementari. Più qualche pezzo grosso qua e là, se sarà possibile. Su, si tiri su la manica della camicia, che la vaccino subito. Forse si farà ancora in tempo. Ma lo vedremo poi. Ah. E lei non si vaccina? Io non ho bisogno. Mi sono vaccinata prima di partire, io. Perché il mio fidanzato mi ha detto che tutti quei discorsi sul vaiolo estirpato per sempre erano soltanto vanterie del direttore. Sia chiaro, qui vicino, in casa di famiglie ricche e di commercianti, sono disposta a vaccinare. Ma non conti su di me per andare in giro per vicoli e cortili a vaccinare la sudicia feccia, toccando gli ammalati pieni di pustole, vedendo pus da tutte le parti. Non sono fatta per queste cose, io. Sono una ragazza a modo, di onorata famiglia. Non sono mica una qualunque, come quell'ordinaria, quell'ubriacona della sua amante, che viene dalla bassa prostituzione che lei ha messa in vista in una strada come si deve. Un affronto indicibile per le oneste famiglie di Cozzuto Volturno. E allora? E la smetta. Adesso non si metta a discutere, signorina. Faccia il suo dovere. Io sono il dottore e il direttore dell'istituto di igiene e lei mi deve rispettare e darsi da fare. Ma non vede che ho paura? Ecco, appunto. Per prima sedia della signorina Orazia, infermiera di seconda categoria, alle dipendenze della direzione dell'Istituto di Igiene Statale. Che mi dimettano pure se gli fa piacere. Ma io qua a rischiare la vita non ci resto neanche un minuto di più. Il dottore, sì, il dottorino. Se vuole che ci vada lui a vaccinare e che per aiutante si porti la sua bagascia. Non ho stomaco per sopportare fettore e marciume. Nel lasso di pochi giorni la città si è come putrefatta. 7 casi di vaiolo accertati durante la notte. La mattina erano già 12. E il quinto giorno il numero dei colpiti è salito a 27. Ma ormai non ci sono più dubbi circa quelle pustole color del vino. Ma l'infermiera Orazia non aveva mica aspettato il turno degli poveri e degli vicoli. Ma che? Che mi dimettano. Non me ne importa nulla. Ma non voglio morire qui mangiata dal vaiolo. Ecco la sua scatola dei vaccini, dottorino. La dia a quell'ordinaria e che ci vada lei con il pus della sua vita verso il pus della morte. Non io, che sono vergine, virtuosa e fidanzata. E adesso, in attesa che quei pirla della capitale mangia stipendi a tradimento, si decidano a mandarmi qualche sostituto che mi aiuterà con le vaccinazioni. Ah, Terry, vieni qua. Che roba orrenda quelle pustole, Terry. Sai che cosa mi ha detto quella grandissima figlia di Troia quando l'ho biasimata per aver sospeso le vaccinazioni? Che mi sarei dovuto far aiutare da te, pensa un po'. Ebbene, io vengo. Te? Te fai cosa? Andrò in giro a vaccinare. Basta che quel giovanotto mi insegni. Nana, sei matta. Non te lo permetterò mai. Non ti ho chiesto se me lo permetterai o no. Non è vero che hai bisogno di gente? con un uovo in gola. Lobo in gola. Che oggi ho l'ingrato compito di rivolgere l'estremo saluto a colui che prima di essere un probo uomo dell'istituzione è stato per me un amico leale. Mi perdonerete quindi se mi rivolgo a lui usando il suo nome di battesimo. Ruggero. Viva, viva! Mai nome fu più idoneo a descrivere il carattere ruggente dell'amico Caparbio, che ha continuato a far sentire il suo ruggito battagliero fino a un attimo prima di lasciarci. Era così Ruggero. Ruggero Maria Pacini, un leone fiero e determinato. Con un unico sfidato pensiero, un unico pensiero fisso, figlia, la salute della gente. Questa era la sua gente, questo era il suo popolo, questo era il suo paese, questo è il paese dove era nato, questo è il paese dove è cresciuto. Era per questa sua tenacia che girava il paese lungo e largo a occuparsi di questa missione che lo tormentava come una febbre. Mai si è risparmiato nella sua lotta alle epidemie che infestano la popolazione del nostro bel paese. Questo era il suo paese, questo l'ho già detto. Tanto indefessa è stata la sua battaglia che non ha avuto riguardo per la sua stessa salute, costringendolo a una prematura dipartita e privando noi tutti di un valido prefetto, servitore umile e incorruttibile, vabbè, del nostro Stato. Oggi ci lascia un eroe, un uomo coraggioso, un filantropo, un santo. Quasi. Un uomo dagli alti valori etici e morali che non esagera ad associare per ardimento e fermezza al nostro pertinace santo Papa Giovanni XXIII. Grazie. Ruggero Maria Pacini. Fraternamente, grazie Ruggero. Il tuo sacrificio non è stato vano, ma è stato un esempio per tutti noi e per me. E continuerò a tenere alta la bandiera della tua memoria battagliando il vaiolo sul campo qui a Consulto Montorno. E con la stessa fierezza ed orgoglio tomerò l'orrendo morto. Non dimenticherò mai il tuo ruggito Ruggero, il tuo sorriso gioviale e il tuo spirito indomabile mi saranno da faro per sempre. Riposa il sonno dei giusti Ruggero. E che la terra ti sia lieve. Veglia. Quando si campa col terrore de morì, smicciandosi le mani come se ci avessi in ticchio, guardando servizio in tutti gli specchi per allumà se è arrivato l'annuncio fatale degli primi buboni. Ma chi è? Chi è che si mette a onorarli morti con decoro, eh? Ma dove li rimedi? La gente e gli baiocchi, quando le veglie grandinano a due, a tre per notte e non si trova più manco un cassamortaro. Che poi, mica se li potevamo tenere in casa, i cadaveri desti pori cristi, per ore ed ore. Tocca liberarsi dei corpi infetti eppure depressa, che quello è il momento peggiore per il contagio. E alla fine si arriva a un punto de non averci più ni manco la fantasia di portare i morti al cimitero. E i defunti ce ne devono accontentare. E buco mettera, in mezzo alla strada, nella fanga. O dove te vi è più facile? La dottoressa Evelina Malapena fu l'ultima, dopo qualche giorno, a meritasse funerale e qualche piantarello. Qua la vecchia sorda, mezza cieca, mezza rincoglionita, che ormai si strascinava stento per le strade, mica se l'annò. E tantomeno si chiuse in casa. Finché gli reggette il cuore, continuò a curare i malati e ci provò in tutti i modi. Ma contro una pestilenza così, non è che si può far molto. Se ci pensate bene, consideravo come sono andate le cose. La colpa è tutta di quella maledettissima ragazza. Ma perché diavolo si è messa in testa a fare la suora di carità? A Santa Teresa. Andare in giro a vaccinare la gente. Curare i vaiolosi. Che donna strana quella Teresa. Per bella che sia, e con la figlia stretta. Quella non è una donna. È una bestia selvatica. Un animale privo di sentimenti. E adesso per colpa sua mi tocca anche correre il rischio di vedere trasformata in un mascherone spaventevole questa bella faccia da bebè che il Dio mi ha regalata e che tutte le femmine si litigano. Non mi toccare! Lavati le mani con l'alcol, lavati tutto il corpo con l'acido prima di toccarmi. Otto, la dottoressa Evelina non ce la fa più. La riserva di vaccini è finita e bisogna che venga tu a visitare i malati. Io? Ma perché non te ne vai? Vada via anch'io, brutta cogliona di una puttana. Io non vado da nessuna parte. E ho molto da fare qui. La paura del vaiolo ha fatto di te un ubriacone e un castrato. Va bene, hai ragione. E allora sai che c'è? Vado a chiedere soccorso. Parto oggi stesso per la capitale. Porterò i vaccini. Vado fin lì e torno subito. Vado di fretta, vado di corsa, vado... Anzi, invece che andare di corsa, prendo il treno che arrivo prima. Il primo treno che parte in mattinetta. Non ti preoccupare, Terry. Vado immediatamente, che aspettare sarebbe un grande errore. In questa situazione la cosa peggiore che si può fare è indugiare. Vado subito, non ti preoccupare. No, non c'è bisogno della valigia. Un'inutile perdita di tempo. Ecco, e il cappotto magari sì. Aspetta, non lo toccare con quelle manacce. Vabbè, non importa, vado senza cappotto. Non si può perdere altro tempo. Vado e torno subito, eh. Vado. E poi quando sarò lì, mi ammalerò di qualsiasi cosa. Influenza, anemia, dissenteria, febbre matta, febbre gialla, mal di pancia. Qualunque malattia è buona per chiedere un sostituto alla direzione dell'ufficio di igiene. Non ci rimango un minuto di più in questo regno della morte nera con quella disgraziata di una donna mentecatta. Magari il vaiolo se la divorasse tutta intera, figa. Cinque biglietti? Aspetta. E due valigie, due. Sì. Dove vai? C'hai furia, dottorino? Vado alla capitale! Prendo i vaccini! Torno! Ma non ci va mica sto treno qui? Questo viene dalla capitale e va giù. A me serve qualsiasi treno, non importa. Una metà vale l'altra, qua non si sta mica a perdere tempo via. Ah, dottorino, i vaccini l'ho portati io. C'ho qui in saccoccia. Sono appena tornato dalla capitale. Una riserva sufficiente per vaccinare tutta la regione. Da un capo all'altro in avanza ancora. Dottorino! Bene, buon pro le facciano. Anzi, sa che le dico? Si prende anche una fetta dell'elettorato. E se c'ha denaro a sufficienza si prenda anche quella lì, quella a Terry. Vide cose spaventose il popolo in quei giorni di vaiolo nero. Vide il direttore dell'ufficio di igiene, un giovanotto laureato, scaracollasse smoccolando tutti i santi del calendario. Quel cocime l'ovo maledetto scappò via tutta Gallara. Una fuga così disordinata che pigliò pure il treno sbagliato. E quando Masino ce lo raccontò, mezzo a tanti pianti per i morti, se siamo schiattati dalle risate. Che ne manchi i ragazzini quando si fanno il tinticarello. Vide cose spaventose proprio in quei giorni di vaiolo e pusto del popolo. Vide per esempio le mignotte del paese, un battaglione che aiuta Matistrano, con Teresa Battista come comandante, sparpagliasse per le città e per le campagne a somministrare il vaccino. Belle chiappe con quel culo colossale. Zizzetta, una scocchia zeppi adatta per epatiti del genere scheletro che va molto remota. Mani de fata, che ai tempi in cui era Purzella era stata soprannominata così dai suoi innamorati, fino al giorno che uno di loro non si accontentò più dalla mano e fece la carità del servizio. Focaccina, bamba, c'è una trippuna per quelli che preferiscono il genere materasso di carne. Oh, c'è chi gli piace, eh? Gregoria, vecchia come il cucco, con 50 anni di fatica sulle spalle, e la giovane Vaccarella, arrivata da poco, 14 anni d'età e due di mestiere, col suo sorriso timido, oltre alla vita, queste che ci avevano da perdere. E la vita di una morta di fame che fa la puttana di campagna, che vale? Nemmeno il vaiolo la vuole una vita, non vale una sega. Non ci vuole nemmeno il Padre Eterno. Vide cose spaventose in quei giorni di vaiolo grande e il popolo. Vide gli ammalati che andavano per le strade, nelle vie, dopo essere stati cacciati a carci in culo dalle fattorie in cerca del lazzaretto. E ci restavano secchi, lì, mentre stavano a camminare. Per chi fa il mestiere della prostituta niente è difficile, credetemi. Andarono a raccogliere le merde secche nelle stalle, lavarono gli indumenti degli appestati, lavarono i malati con permanganato, perforarono le pustole, scavarono fosse, seppellirono gente. Le puttane da sole. Per poter andare via di lì, dove non c'era più niente da fa', Teresa fu obbligata a vendere qualche piccolo gioiellino al Turco Squef, che poteva essere candidata a diventare il suo protettore. Ma non era il caso. Mantenuta? Mai più. Piuttosto puttana in un postribolo aperto alla sporcizia per le strade di campagna, dove l'epidemia non finisce veramente mai. Ma una mantenuta non lo sarò mai più. E neppure semplicemente una compagna di avventura in cerca di piacere o di tranquillità? Mai più. Gennaro Corolla, dove sei? Neppure la morte mi ha voluto. Eccola che se ne va, sola, quella sfacciata. Il cattivo vaso non si rompe mai. È morta tanta brava gente, e quella disgraziata che è andata ad intromettersi persino nel lazzaretto. Non si è presa nulla. Il vaiolo avrebbe potuto almeno rovinarle la faccia. Due di noi si presero la varicella, ma nessuno si prese il vaiolo, perché Teresa ci aveva fatto il vaccino per prime. Di noi morì nessuna, tutte vive a raccontare com'era andata. Però si dovette andare via dalla città a guadagnarsi il pane dall'altra parte, perché lì la clientela non c'era più, perché nessuno ne voleva sapere di una che c'aveva dentro tanto vaiolo così. Ora, non solo s'era puttane, ma s'era diventate anche intoccabili. Ma siamo ancora a giro noi. Chi vuoi che ci ammazzi? Zaccaria guarì. Ci teneva la vita lui. Ma ancora oggi non sei capacita di com'è che andò a finire al lazzaretto. Ah, a proposito del vaiolo, ci furono un sacco di storie. Perché alla gente gli piace cianciar de tragedie, pus e morte. Ci scrivettero delle storie che si sgrufoli un po', capace pure che le trovi sulle bancarelle che vendono i libri al mercato. Ma nessuna storia è più vera de sta BC. Che mo però finisce qui, perché non c'avevamo più niente da raccontare. La BC del combattimento tra Teresa e il vaiolo nero. Quarto episodio dello spettacolo a puntate Teresa Santa, Puttana e Sposa di Marco Bilanzone, regia Lorenzo Montanini, con Nadia Raman Caretto, Flavia De Lipsis, Jessica Granato, Eleonora Turco, Giuseppe Mortelliti, Alessandro Di Somma. con Alessandro Di Somma di Teatro Studio 1, uno degli attori del quarto episodio dello spettacolo a puntate Teresa Santa, puttana e sposa. Il titolo è L'ABC del combattimento tra Teresa e il vaiolo nero. Alessandro, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Raccontiamo questo progetto? Questo progetto è nato dall'idea di Lorenzo Montanini, che è un nostro amico regista da tanti anni. Ci siamo persi un po' di vista perché ha cominciato a girare il mondo, insomma è una delle persone con cui ho cominciato proprio a fare teatro ormai 20 anni fa. E insieme a Adriana Turco, con cui gestiamo il Teatro Studio 1, ci ha proposto questo spettacolo a puntate tratto da Teresa Stanca di Guerra di Amato, quindi una riscrittura adattata in Italia di questo classico della letteratura sudamericana. Questo progetto è nato 2 anni fa, l'abbiamo portato in scena in forma ristretta, insomma negli spazi del Studio 1 sono piccoli e per pochi spettatori. Abbiamo diviso le 5 puntate in tutto l'anno e poi alla fine abbiamo fatto una bellissima doppia giornata di spettacolo lungo un giorno, quindi partendo dalla mattina fino alla sera, 6 ore di spettacolo con pranzo, aperitivo, chiacchiere con il pubblico, e quindi è stata un'esperienza bellissima. In queste 5 puntate si esploravano anche 5 tipologie di teatro diverse, tra cui c'era il radiodramma. In questo radiodramma si parlava della peste, del vaiolo, insomma, della morte nera. E quindi durante questa pandemia ci siamo chiesti se valesse la pena di portarlo al radiodramma vero e proprio, e quindi ci siamo messi nelle nostre postazioni a casa e l'abbiamo restituito in forma radiodrammatica, mentre noi a teatro mettevamo in scena il radiodramma, quindi con una parete di vetro di plexiglass, e facevamo vedere agli spettatori più o meno come si compone un radiodramma in forma di spettacolo. Quindi abbiamo traslato il radiodramma teatrale in un radiodramma vero e proprio. Facciamo 2 passi indietro. L'inizio, cioè la trasposizione dal testo di Amado al lavoro teatrale. Che tipo di lavoro avete fatto? La traduzione e il riadattamento sono fatto da Marco Piranzone, e il riadattamento è stato veramente da tagliare molto. L'essenza, la storia di Teresa come eroina moderna che attraverso tutte le vicissitudini della sua vita si consacra, no, come eroina verso tutte le vicissitudini che vive, quindi abbiamo deciso di traslarla nel contemporaneo italiano, un po' perché è una cosa che ci piace adattare all'italianità, quindi tutti i dialetti parlati nel libro di lingua portoghese l'abbiamo portato in lingua italiana, dandogli poi un colore anche di commedia all'opera, cercando di trovare la brillantezza, anche un po' il colore un po' italiano e mediterraneo di questa opera, che era un dramma a tutto tondo. Invece abbiamo cercato di dargli un po', attraverso un po' i cliché teatrali, alle chiavi di lettura, anche momenti di gioco, di risata, di musica, che è un po' la chiave anche della regia di Lorenzo Montanini, a cui piace mischiare i generi e a cui piace mischiare i linguaggi. Del lavoro teatrale, qual è secondo te il nucleo più forte? Sicuramente lo scegliere cosa raccontare di un romanzo complesso come quello di Amato. Cioè, si potevano scegliere tante chiavi di lettura, è stata scelta quella più narrativa, quella più teatrale, quindi raccontare Teresa attraverso tutte le persone che incontrava. Eravamo 8 attori che rappresentavano 30, 40, 50 personaggi, quindi raccontare la storia di Teresa attraverso tutti i personaggi che incontra, i positivi, i negativi, che la fanno crescere, che la battono, che la violentano, poi la redimono e la portano all'apice della sua carriera umana. Quindi il lavoro, secondo me, molto bello è stato quello di umanizzare questo personaggio e tutti i personaggi che lo compongono, anche le divinità che incontra, perché è un racconto, un romanzo pieno di personaggi anche iconici, e quindi è stato divertente e secondo me sarà molto funzionale quello di prendere personaggi e renderli veri, tangibili, in carne umana, partendo da violenti, passando per i santi che incontra durante la sua strada, e quindi tenendo quest'aura di Teresa come vittima delle macchinazioni della vita, e attraverso i personaggi che l'aiutano ad andare avanti nonostante tutte le disavventure. È stato bello poi avere come protagonista Nadia, che è un'attrice originaria di Singapore, quindi era anche dal punto di vista estetico una colorazione diversa proprio alla messa in scena. Una ragazza di Singapore che parla un italiano con un forte accento straniero, che è un po' questa Teresa sola in un mondo che parla un linguaggio completamente diverso dal suo. Delle pagine di Amado cosa avevi apprezzato? L'Amato ha una penna straordinaria in cui riesce a mischiare la realtà e la fantasia rendendo tutto plausibile, quindi è uno scrittore completo, molto sudamericano, possiamo dire così. Quindi io, che ho letto qualcos'altro di lui, penso che la scrittura di Teresa è una scrittura complicata, ma ti porta in un mondo sognante, misterioso e anche molto teatrale, quindi penso che l'adattamento al teatro sia stato, per quanto difficile, e ci ha portato tutta la bravura di Marco Pirandone al testo e di Lorenzo Montanini nella regia per renderlo reale, renderlo vivo, nonostante le mille invenzioni che porta Amato, sia nella scrittura dei personaggi, che sono personaggi complicati ma anche netti, no? Il buono, il cattivo, quindi veramente adattarlo al teatro io non ci avrei mai pensato, perché dopo averlo riletto ci ho visto che è un spettacolo, nonostante sia stato veramente il romanzo è tagliato, ricucito, reinventato, quindi magari del romanzo rimane l'odore e il colore che sa dare Amato ai suoi testi. Dopo lo spettacolo e il radiodramma, quali saranno i passaggi? Beh, noi speriamo di poterlo rifare con Eleonora Turco, ci sforziamo notte e giorno di trovare delle location, delle situazioni per poterlo riportare in forma completa, insomma nei cinque episodi. L'idea nostra è quella di portarlo nelle città, nei paesi, quindi identificare cinque luoghi diversi nei comuni o per riportare questo romanzo molto popolare, un teatro popolare, quindi per tutti, dai 10 ai 99 anni, per qualsiasi situazione sociale, non è un spettacolo, diciamo, con la puzza sotto al naso, quindi ci sarebbe piaciuto portarlo un po' nei luoghi in cui per noi è ambientato, quindi questo paese di Cozzuto Volturno che rappresenta una provincia italiana qualsiasi, ci piacerebbe portarlo nelle province, nei luoghi, nelle città in cui questi personaggi possono essere riconosciuti nella storia del paese o nella contemporaneità, quindi in ogni città, in ogni paese c'è qualche storia mitica, mitologica su qualche personaggio che l'ha vissuto, quindi ci piacerebbe portare questa mitologia teatrale, questo racconto di provincia nelle province, secondo noi è molto adatto. Nel salutarci ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, abbiamo una pagina Facebook che è Teresa Santa Puttana e Sposa, è uno spettacolo lungo un giorno, e qui potete trovare tutte le informazioni sullo spettacolo e sulle prossime date che speriamo arrivino presto, in questo post feste nera, diciamo così. L'ABC del combattimento tra Teresa e il vaiolo nero, un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Di Somma. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, Alessandro. Grazie Federico, grazie a tutti. Ciao. Con Giulio Baffi, uno dei due coordinatori artistici di Racconti per Ricominciare, percorsi di teatro dal vivo dal 25 giugno al 12 luglio 2020, 12 spettacoli itineranti in contemporanea in 11 luoghi monumentali della Campania. Giulio, ben trovato. Ben trovato a voi, ben trovato a te, che piacere ritrovarci visto che ricominciamo. I nostri racconti ci fanno ricominciare a fare teatro. Raccontaci di questa iniziativa. Vuole essere esattamente un ricominciare, è un'occasione rivolta agli attori che in questo momento patiscono, è un'offerta di Vesuvio Teatro e dell'Ente Teatro Cronaca che producono un mega spettacolo, uno spettacolo con ben 60 attori, perché il nostro invito è stato raccolto con tanto entusiasmo che a un certo punto ci siamo dovuti fermare, e quindi 60 attori non messi in rete, ma messi come una grande rete su un territorio molto vasto. Uno spettacolo che si articola con altrettanti racconti di 15 minuti ognuno, che vengono distribuiti in 11 location storico e architettoniche particolarmente belle, raggruppati per 4-5 storie o 4-5 attori per volta, per un pubblico secondo le indicazioni e gli obblighi di 20 spettatori, ogni gruppo di spettatori vede l'attore con la sua performance e poi ne vede, si sposta lievemente e ne vede un altro e così via, quattro per volta, con un'ora di rappresentazione, con spettacoli di vario umore, varia temperatura. Abbiamo cercato di costruire microtemi o microgrumi di emozione, attingendo a un patrimonio di racconti nazionale, antico, ma chiedendo a 16 autori di costruirci delle micro drammaturgie da offrire agli attori, quindi racconti scritti da giovani e non giovanissimi, ma eccellenti autori, metti Emanuele Delrico, Sara Sole, Fabio Pisano, Fortunato Calvino, tanto per fare i primi nomi possibili, Igor Esposito, che hanno scritto dei racconti, a volte ispirandosi anche al luogo, come è successo per Emanuele Delrico, che su Casamarciano ha costruito un percorso di 5 racconti che si intrecciano a ritrovare la storia, o Edoardo Tartaglia, che ha costruito una storia per 5 personaggi che insieme si intrecciano, si distanziano e raccontano un fatto, oppure varie ipotesi e possibilità. Il pubblico è per piccoli gruppi, fortunatamente tutti all'aperto, quindi senza mascherina, ma con le distanze necessarie. Ci sembra che sia una proposta anche interessante in questo momento. È una proposta naturalmente faticosa, perché è una produzione di compagnia che dedichiamo proprio al teatro, alla nostra necessità di fare teatro, di vedere teatro, e non solo vederlo da vicino, vederlo come deve essere il teatro tutte le volte che ci piace di farlo e di vederlo, ecco. Però andiamo a scontrarci, a cercare, vediamo se ci sono gli spettatori ancora, dove sono ancora gli spettatori. Questo lungo periodo di vuoto ci lascia ancora degli interrogativi, tutti da affrontarsi e tutti da risolversi. Vedremo. Ricominciamo con molta allegria, molta speranza, molta fiducia. I criteri di scelta di abbinamento con questi luoghi monumentali sono stati vari, metti per esempio al Museo Storico delle Ferrovie dello Stato a Pietrarsa, abbiamo 5 racconti che sono di viaggi metaforici, viaggi concreti, ma ci parlano del viaggio. A Villa Campolito, a Ercolano, che è una villa ricca di storie nobili e di regnanti, mettiamo un gruppo di attrici che raccontano storie di regine vere o regine metaforiche, naturalmente. E quindi cerchiamo di costruire abbinamenti, se vogliamo chiamarli così, ma in effetti sono vicinanze poetiche, ecco. A Villa Fiorentino a Sorrento ci sono differenze dei sessi, dei sentimenti, e quindi li chiamiamo inneschi. Al Parco della Favorita è tutto impostato sui giochi, e quindi li chiamiamo i nuovi giochi reali. E c'è un racconto di Massimo Andrei, uno di Rene Grassi, uno di Sergio Longobardi, uno di Margherita Romeo ed uno di Fabio Rossi, con varia prospettiva, varie angolazioni di giocare il gioco vero, il gioco metaforico, il gioco dell'anima, il gioco possibile. Sono micro drammaturgie che costruiscono dei piccoli spettacoli che insieme formano un grande mosaico di micro spettacoli che in qualche modo si possono connettere o possono rimanere sciolti tra di loro. La cosa interessante, secondo me, è proprio il poter vedere un così gran numero di attori misurarsi un po' questa proposta con questo tema del raccontare, perché poi ognuno teoricamente potrebbe vedere anche due racconti per ogni volta, vedendone con il tempo dei piccoli spostamenti. È un periodo tutto sommato di 12 giorni e gli spettacoli sono molti. Ecco, proprio a questo proposito, come saranno cadenzati in quest'arco temporale? Gli spettacoli sono, diciamo, quasi tutti, perché qualcuno comincia un po' più tardi, qualcuno un po' dopo, ma quasi tutti sono dal giovedì alla domenica con vari cicli, iniziano ogni mezz'ora a partire dalle 17 a finire alle 19.30, quindi a secondo della quantità di spettatori, fino a un massimo di 20, se si riempie si dovrà spostare sul periodo successivo, però nell'arco di tempo che va dalle 17.30 alle 19.30, due ore, cioè ancora con la luce, con il sole, con la luce che c'è, ci sono in questi posti che sono giardini, che sono parchi, che sono esedre, che sono chiostri, che sono ville, ci si ritrova per questo incontro che è un incontro, ripeto, di teatro che si vede, di teatro che si ascolta, di teatro che si percepisce come scambio anche fisico tra attore e pubblico. Ho visto che il programma è sul sito internet di Vesuvio Teatro. Racconti per ricominciare, percorsi di teatro dal vivo dal 25 giugno al 12 luglio 2020, 12 spettacoli itineranti in contemporanea in 11 luoghi monumentali campani. Un saluto e un ringraziamento a uno dei due coordinatori artistici, Giulio Bassi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Giulio. Crepi il lupo, grazie, a presto e buon lavoro a voi tutti. Con Roberto Casiraghi, uno dei curatori del progetto Torino Photo Tales. Roberto, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ci presenti quest'idea? È un'idea piuttosto curiosa che si distingue e si distacca sensibilmente dalla moltitudine di iniziative legate al web che ci sono purtroppo in questo periodo, perché abbiamo aggiunto alla presentazione di opere d'arte fotografica due aspetti fondamentali. Il primo è che ogni opera è commentata da un'intervista fatta al gallerista che la propone, e la seconda, che è ancora più esclusiva, per 4 giorni, dal 25 al 28 di giugno, ad orari precisi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, ci sarà per il pubblico la possibilità di entrare in chat live con i galleristi. Come era nato tutto? Tutto era nato perché cercavamo, durante il lockdown, di dare un senso ad un brand, ad un marchio che era The Fair, che aveva avuto la prima edizione a maggio del 2019 dentro la vecchia Borsa Valori di Torino, un successo oltre ogni aspettativa, e non è solo una frase fatta, ma è un dato della realtà, per cercare di non lasciare deperire fino al 21-23 maggio del 2021, quando ci sarà la seconda edizione di The Fair, questo marchio. E allora abbiamo cercato di costruire una connessione che andrà avanti a partire dal 25 di giugno fino al 1 di agosto e poi riprenderà il 1 settembre e andrà avanti fino alla fine di aprile, i primi di maggio dell'anno prossimo. Sono diverse le strutture che hanno aderito e anche le opere presentate. Diciamo che l'impianto nasce dalla realizzazione della fiera del 2019, quindi ci sono circa 40 gallerie, presentano ciascuna 3 immagini, per cui ci troviamo all'incirca 120 opere delle quali parlare, intorno alle quali si costruiscono delle storie e si verificano delle emozioni. Il progetto come si articolerà poi? Il progetto parte dal nucleo centrale, che sono appunto le 38 gallerie della fiera con qualche altra invitata. Il portale poi diventerà un vero e proprio portale legato all'immagine, con scandagli che sono interviste, relazioni, rapporti, video con protagonisti vari, ma tutti sul tema dell'immagine. Quindi intervisteremo e avremo contributi sia di tipo tecnico, quindi direttori di museo, collezionisti, artisti, fotografi, curatori, sia di altro genere, cuochi, commercialisti, architetti, scrittori, pittori, che però sono accomunati tutti quanti dal tema dell'immagine. E anche per le opere presentate l'unico tema è quello dell'immagine, quindi uno spettro molto ampio di soggetti. Sì, l'unico tema è quello dell'immagine, anche per cercare di distinguere il nostro progetto da altri e altrettanto, se non ancora più importanti, progetti, diciamo, generici sull'arte contemporanea. Ovviamente noi abbiamo scelto una nicchia che poi tanto nicchia non è, che però riguarda solo ed esclusivamente la fotografia e l'immagine. Com'è pensata la chat? Diciamo che i passaggi sono dei passaggi abbastanza semplici. Il pubblico si troverà di fronte ad un grandissimo numero di immagini, potrà cliccare su un'immagine, e ormai il verbo cliccare è diventato consuetudine per tutti, cliccherà su un'immagine, l'immagine si ingrandirà e aprirà una scheda dove ci saranno le caratteristiche, diciamo, tecniche dell'opera sulla quale si è soffermato. Se vorrà approfondire, potrà aprire la video intervista con il gallerista che ha proposto quell'immagine, e durante questo video avrà la possibilità di, appunto, aprire una chat live con il gallerista che sarà dall'altra parte del computer. Questo solo però in orari specifici. Mentre gli autori saranno presenti esclusivamente con l'opera. Anche perché molti autori sono, per esempio, defunti, quindi va bene che la virtualità fa galoppare la fantasia, però non fino a quel punto. Ci dai tutti i riferimenti web? Sì, basta andare su www.defair.com e si aprirà un mondo a partire dal 25 di giugno. Torino Photo Tales, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Roberto Casiraghi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie molte e auguri anche a voi. Con Michele Losi, direttore artistico della 16ª edizione di Esperidi on the Moon, il giardino delle Esperidi Festival, Monte di Brianza, dal 27 giugno al 5 luglio 2020. Ben trovato. Ben trovati voi. Raccontiamo l'esperienza del giardino delle Esperidi Festival. Come lo descriveresti? È un luogo incantato, secondo me, in mezzo alla natura, e cerca di portare al pubblico italiano e locale performance un po' fuori dall'ordinario, ma è spesso legato anche a un buon gusto un po' internazionale. Quest'anno in particolare penso che abbiamo anche fatto un salto ulteriore, cioè paradossalmente quello che è successo con la pandemia ci ha portato ad essere ancora più radicali in certe scelte di programmazione, quindi ad avere un'attenzione sempre maggiore per le performance itineranti, per i lavori per pochi spettatori alla volta, per dei contenuti che avessero molto a che fare con i temi della natura, i temi della natura spezzata e tutte le conseguenze che questo ha. Quindi diciamo che l'edizione di quest'anno in particolare, oltre ad essere attenta ai linguaggi del contemporaneo e a delle esperienze internazionali di lavoro, ha come taglio fondamentale quello di sperimentare un'atmosfera diversa. Cioè, infatti l'abbiamo chiamato Esperidi on the Moon perché ci immaginiamo che un po' il pubblico, un po' gli artisti saranno come dei cosmonauti sulla Luna. Al posto delle mascherine gli faremo mettere i caschi integrali da cosmonauti. però l'idea appunto era di cercare anche di giocare con questa cosa, di giocare in modo chiaramente consapevole e nello stesso tempo anche di lavorare artisticamente su queste limitazioni che ci sono in questo momento, quindi esprimere un po' questo taglio, l'idea di abitare un altro pianeta. Nei borghi e sui sentieri, diverse discipline artistiche, tutti all'aperto. Tutti all'aperto. Questa è in realtà un po' una caratteristica del nostro festival, nel senso che a una parte pochi eventi, solitamente comunque facciamo tutto all'aperto, quindi utilizziamo spazi che vanno dalle corti, dalle cascine, ai sentieri, ai boschi. Utilizziamo quest'anno anche tutti gli spazi pubblici di alcuni comuni e di alcune municipalità come i campi sportivi, perché abbiamo una delle performance secondo me più divertenti e interessanti del festival, che è Radio Olimpia Bomba del collettivo MMM, una sorta di giochi senza frontiere che vogliono sostituire le Olimpiadi di Tokyo, quindi abbiamo deciso di farli nei campi di calcio. E in realtà, se solitamente siamo un pochino più classici, magari andiamo nelle nuove storie, che quest'anno invece stiamo utilizzando anche dei luoghi solitamente legati ad altre discipline come lo sport. Però sì, non tutti i luoghi all'aperto sono luoghi belli, nel senso che sono luoghi interessanti anche da un punto di vista paesistico, e nello stesso tempo stiamo lavorando tantissimo con gli artisti e con le compagnie, non semplicemente per utilizzare i luoghi come spazio di rappresentazione, ma anche in parte come spazio di creazione. Infatti tanti artisti che vengono a presentare delle prime o delle anteprime nazionali sono in residenza da noi per un certo periodo prima di debuttare, e quindi con il luogo ragionano, dialogano, interagiscono. Questa è un'altra delle caratteristiche, penso, peculiari delle Esperidi, che quest'anno paradossalmente si è fatta ancora più evidente, proprio perché gli artisti avevano bisogno di spazi in cui provare, proprio perché fino al 1° di giugno non hanno potuto farlo. Oltre alla forma teatrale, quali saranno gli altri eventi? Abbiamo 4 talk, secondo me interessanti, con degli ospiti importanti come Gerardo Guccini, come Vittorio Agnoletto, come Fabio Schioppa, o come anche Fabrizio Livia Dubos, che ha scritto un libro molto interessante, si chiama Il volo al tempo dell'antropocene, insomma è un libro sul sognare la Terra, sul immaginarsi la Terra in un modo differente. Poi avremo Livia Rotonda di Pino, avremo Simone Pacini, e poi Cresco, che presenta un incontri tra critici ed artisti nell'ultimo giorno del festival con lo stato dell'arte. Quindi da una parte abbiamo i talk, poi abbiamo dei laboratori, uno che è iniziato proprio oggi con Cinzia De Lorenzi e uno che inizierà il 24 con Riserva Canini. E poi invece gli spettacoli, quindi da spettacoli diciamo da palcoscenico da questo punto di vista più tradizionali, come lo spettacolo della contraddizione Vice, o gli spettacoli di Borghini o di piccola compagnia Palazzo Tavoli, fino ad arrivare a concerti come i concerti della Barbarito, a tantissime invece performance che mescolano vari linguaggi, la danza, il teatro contemporaneo, le camminate urbane o in mezzo alla natura con le cuffie o dei percorsi sensoriali, per cui in realtà il festival ha tanti tagli differenti. E poi c'è tutta una programmazione che solitamente è più ridotta, quest'anno invece abbiamo voluto ampliarla, che è rivolta ai bambini e alle famiglie, sarà Experience the Moon Kids, con diversi eventi e spettacoli che avranno questo tipo di taglio, quindi spettacoli per tutti. Ci sembrava giusto nei confronti del pubblico, dei più piccoli, che è rimasto chiuso in casa per tanti mesi. 9 giorni per quanti eventi nel complesso? Sembra 33 eventi nel complesso, 15 spettacoli differenti, però appunto per poter dare la possibilità a tutti di vederli, ed essendo in alcuni casi magari davvero limitati, 33 eventi che sono 15 spettacoli. Nell'intero arco della giornata? Tendenzialmente sono nel pomeriggio e poi la sera fino a notte, non tarda, però fino a mezzanotte dura. Invece per quanto riguarda le domeniche, in modo particolare anche i sabati, abbiamo degli spettacoli per bambini che sono anche al mattino. Solitamente facciamo una replica alle 10.30 del mattino e una replica alle 15.30 o alle 16 del pomeriggio, in modo tale da, anche in questo caso, spesso sono comunque spettacoli itineranti, anche quelli per i bambini, sono per 30-40 spettatori alla volta al massimo. In questo modo abbiamo la possibilità a più persone di poter vedere i lavori. i riferimenti web per la programmazione? Abbiamo un sito che si chiama Il Giardino delle Sperie di Festival, oppure potete trovare comunque anche presso Cansilago, il sito di Cansilago Residenza, avete tutto il programma, tutte le informazioni, anche sulla vendita online dei biglietti, che non è obbligatoria ma è fortemente consigliata per i bassi numeri, diciamo, di affluenza possibile. Il Giardino delle Esperidi Festival, 16ª edizione, dal titolo Esperidi on the Moon, Monte di Brianza, dal 27 giugno al 5 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Losi. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, un abbraccio. Con l'artista Francesca Fini per presentare due suoi nuovi progetti, Endecameron 20 e Corpo Elettrico. Francesca, ben trovata. Ciao. Partiamo da Endecameron, raccontaci un po'. È una residenza artistica che è alla sua terza edizione. Le prime due edizioni sono state delle residenze fisiche con gli artisti che sono andati a vivere per 10 giorni, quindi in realtà è 11, cioè il Decameron più uno, no? Quindi Endecameron. La prima edizione era molto particolare, se la vediamo con il senno di poi, perché è stata nel 2018, io ero artista in residenza come performer, ed era tutta giocata sul Decameron di Boccaccio, sull'idea degli artisti che si chiudono nel castello per sfuggire alla peste e che si raccontano delle storie, nel caso degli artisti creano delle opere quotidianamente per tutti gli altri. Quindi il tema della residenza era bellissimo, è stata una residenza molto intensa, molto interessante, in questo castello del medievale a Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. È un castello molto famoso che ha una pianta zoomorfa, sembra uno scorpione, no, in pianta, ed è uno degli esempi praticamente rarissimi di castelli con pianta zoomorfa. E quindi, letto col senno di poi, il tema di quella residenza era particolarmente inquietante. Quest'anno, chiaramente per i motivi che tutti ben conosciamo, hanno deciso i proprietari, che sono anche i patroni e sponsor di tutte queste attività artistiche, sono dei collezionisti, amanti di arte contemporanea, hanno deciso di fare una residenza digitale e di chiamarmi per creare un format che possa in qualche modo cercare di trovare una trade union, una cucitura tra il virtuale e il reale. Io ho chiamato 8 artisti che dai loro studi creeranno delle opere pensando al castello ma alla sua trasfigurazione digitale, quindi al suo avatar, non al castello reale, con le stanze reali. Infatti le stanze non sono quelle reali, abbiamo fornito pochissimi materiali, abbiamo fornito solo un'idea della stanza, un tema legato a quella stanza, e quindi dai loro studi produrranno queste opere. Dal 17 al 26 luglio quotidianamente posteranno tutti i work in progress, le loro riflessioni, i bozzetti, video confezioni, pezzi di audio su un blog multimediale che ho creato proprio sul sito, che è endecameron.it, e poi queste opere verranno spedite digitalmente al castello e noi le ricollocheremo all'interno, quindi ritroveranno la loro epifanizzazione, la loro materializzazione all'interno delle stanze reali attraverso proiezioni, filodiffusioni nel caso del suono e nel caso della parola, perché c'è un sound artist che è Silvia Cignoli, ma c'è anche uno scrittore molto famoso che è Francesco Dimitri, uno scrittore di fantasy, fantascienza, oppure potrebbero esserci, non so, dei QR code per i video, dei monitor, la realtà virtuale. Igor Imov, che è un artista che lavora con il 3D, creerà una grande scultura animata che noi collocheremo con le coordinate GPS in realtà aumentata al centro della corte grande del castello. Quindi diciamo che alla fine poi le opere saranno ricollocate, e l'ultimo stato della residenza è che poi, quando finalmente avremo ben chiare le regole, soprattutto per quanto riguarda il castello, che ancora non sono molto chiare, perché un'entità come il castello sfugge, no, alla regolamentazione, alla burocrazia, quando avremo ben chiaro, gli artisti faranno un pellegrinaggio e andranno a vedere le loro opere, magari uno alla volta, collocati all'interno della realtà fisica del castello. Parliamo anche di Corpo Elettrico? Certo. Allora, Corpo Elettrico è un altro progetto che io ho concepito durante la quarantena e che adesso si sta concretizzando. L'ho sviluppato grazie alla collaborazione di Davide Cortese, che è un poeta con cui ho collaborato spesso e che mi ha aiutato a selezionare i poeti. Ho coinvolto 20 poeti italiani, contemporanei, tra i quali Maria Grazia Calandrone, Anna Maria Curci, Claudio Damiani, Davide Rondoni, Tommaso Giartosio, sono dei poeti abbastanza conosciuti, e li ho coinvolti in un progetto per assistente vocale, ovvero praticamente è un programma di poesia italiana contemporanea letta da attori italiani, sonorizzate da me, perché non sono semplici letture ma diventano dei piccoli radiodrammi dove anche il suono crea una sorta di drammaturgia che sostiene la parola, e queste clip, queste piccole opere sonore, poetiche, letterarie, faranno parte di un programma, di una skill, un'app per Alexa e per Google Assistant. Quindi la gente potrà scaricarsi gratuitamente l'app da Amazon Store per quanto riguarda Alexa e poi quindi chiedere, lanciare la skill e potrà navigare in una sorta di podcast per assistente vocale, tutto fatto di poesia contemporanea. La cosa divertente è che io ho programmato chiaramente Alexa non solamente per leggere, quindi diciamo per fare da contenitore a queste opere, ma per diventare essa stessa oggetto poetico, e quindi Alexa risponde sempre con un linguaggio che è fatto di pezzi di poesie. Quindi anche Alexa ha una sua personalità, ho conferito a Alexa tramite la programmazione una personalità poetica. Nel salutarci ci lasci tutti e due i riferimenti web? Sì, Endecameron è endecameron.it e il sito è adesso attivo online, ma sarà chiaramente, comincerà ad essere popolato dal 17 luglio. E invece Alexa, per quanto riguarda il programma di Corpo Elettrico, ancora non c'è un sito, ma tutte le informazioni possono essere trovate sul mio sito personale, che è francescafini.com. Endecameron 20 e Corpo Elettrico, due progetti dell'artista Francesca Fini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Francesca. Grazie. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.